fue el adiós senza dirsi una parola, tutta colpa di un mancato chiarimento. Quante volte mi son chiesto se stai sola nel tuo nuovo appartamento. Così ho messo sotto vetro ogni emozione, se il lavoro haya preso il sopravvento, e l'orgoglio ritardato l'intenzione, non sai quanto io ti sento. Se tornassi perché no, star distanti cosa vale? Faccio di tutto per dimenticare, so chi sei ora quando non ti ho. Se tornassi perché no, al tuo fianco e volare, adesso non ti lascerei più andare, perdere te per due volte non si può. Ci sentiamo per questioni di interesse, per parlare del futuro dei bambini, ma le nostre incomprensioni sono le stesse, non possiamo stare vicini. A momenti si profila l'amnistizio, alle atti di un'antica nostalgia, ma nessuno vuole mettere giudizio, vuole dire colpo a mia vita. Se tornassi perché no, star distanti cosa vale? Faccio di tutto per dimenticare, so chi sei ora quando non ti ho. Se tornassi perché no, al tuo fianco e volare, adesso non ti lascerei più andare, perdere te per due volte non si può. Se tornassi perché no, star distanti cosa vale? Faccio di tutto per dimenticare, so chi sei ora quando non ti ho. Se tornassi